i riflessi della tua anima, i riflessi della tua anima risciascono i tuoi sentimenti con lacrime di cielo e rose. Il cuore stanco di sopportare il dolore dei limiti della ingiustizia. Ma il cielo offre la sua mano, offre il suo grido, offre un futuro migliore. L'anima è confortata, l'interno è rafforzato e tutto il suo riflesso illumina l'esterno. La sua riflessione non mente, il suo riflesso non si nasconde, il suo sentimento è immerso e il suo cuore come testimone. La gioia, il dolore, la rabbia, la passione, i riflessi che filtrano negli occhi, nel viso e nel respiro. I riflessi della tua anima riassiascono i tuoi sentimenti con lacrime di cielo e rose. Nel grembo materno l'anima è pura e non c'è ancora nessun pianto. Il cuore batte per la sua madre e il suo sangue ha la tintura della sua eredità. E il cielo offre la sua mano, offre il suo grido, offre un futuro migliore. Mantiene la nostra anima e il cuore puliti, i sentimenti vanno e vengono, lasciali scorrere. Dobbiamo chiudere la porta alla chiusura, che alla fine diventa una malattia. I riflessi della tua anima risiascono i tuoi sentimenti con lacrime di cielo e rosse. Il Cavaliere.